Un benvenuto a tutte e tutti, io sono Carlotta Pedrazzini e questa è la terza puntata di A Rivista Pod, il podcast di A Rivista Anarchica. In questa puntata parleremo del numero 444, il numero di giugno 2020. A presentarlo sarà Paolo Finzi della redazione di A. Nella seconda parte parleremo del tema di copertina, che è ginnastica d'obbedienza, e proporremo un'analisi del controllo sociale e dei metodi repressivi, molto spesso sproporzionati, utilizzati per la lotta alla pandemia. Nella terza parte ospiteremo Paolo Pasi, giornalista Rai e nostro collaboratore, che ci presenterà la sua rubrica Lettere dal futuro, una rubrica di racconti fantascientifici presente su ogni numero di A dal 2012. Ricordo che il numero di giugno è ancora disponibile in versione cartacea e reperibile sul nostro sito www.arivista.org. È anche scaricabile in PDF e leggibile online, sempre sul nostro sito. Siamo qui a presentare il numero 444, giugno 2020, di A Rivista Anarchica. Ancora una volta una copertina sulla questione assolutamente predominante del coronavirus. Anche se poi nel numero, anche in questo numero, ci sono numerosi articoli che affrontano altre differenti tematiche. La copertina ha un titolo forte, Ginnastica d'obbedienza. È un disegno del pittore Pietro Spica, riprende un'espressione poetica di Fabrizio De André e intende sottolineare un aspetto specifico del fenomeno della lotta alla pandemia, e cioè quello dell'accentuato controllo sociale che, nell'ambito della lotta alla pandemia, è stato esercitato dal potere. Noi siamo stati fin dall'inizio molto chiari, assolutamente contrari a qualsiasi forma di negazionismo. La pandemia c'è, è una tragedia globale, ci sentiamo impegnati a combatterla e abbiamo scritto fin dal primo numero, quello di aprile successivo all'inizio della pandemia, che siamo pronti ad accettare anche forti limitazioni della libertà individuale e sociale per contribuire a questa lotta generale. Vari articoli se la prendono con Trump, Bolsonaro, con tutte quelle tendenze di destra che hanno fatto della libertà la loro bandiera. Libertà che va intesa nella loro concezione come libertà di sfruttamento, di oppressione, di continuare la produzione a qualsiasi costo, di sottovalutare la pandemia. Siamo assolutamente contrari a qualsiasi atteggiamento antiscientifico, ma al contempo riteniamo che nessuna lotta contro guerre, pandemie o altro possa giustificare, lo abbiamo scritto anche nei numeri precedenti, l'instaurarsi di un pensiero unico, guarda caso quello dello Stato, neppure se supportato e giustificato dal parere dei cosiddetti esperti. Noi intendiamo anche questi pareri sottoporli a una valutazione critica. Non siamo né pretendiamo essere esperti di pandemie. Non siamo complottisti, non lo siamo mai stati, cerchiamo anzi di mantenere aperta la mente e le pagine della rivista alla comprensione razionale e critica, certamente non facile, delle molteplici situazioni in atto. Siamo, noi della rivista, persone ragionanti e ragionevoli, contrariamente a quell'opinione generalmente negativa attribuita alle anarchiche e agli anarchici dai mass media. Anche in questo numero ci sono oltre una decina di contributi relativi alla questione del coronavirus e senza far riferimento ora a nessuno di questi interventi, ci teniamo a sottolineare quanta varietà di sensibilità, anche di opinioni, ci sia in questi interventi che appunto servono per allargare la mente, aprire il dibattito, non per dare una linea che che noi non intendiamo dare. Vogliamo essere una delle voci scomode, una delle tante, che ospitano opinioni e pratiche di solidarietà dal basso per conoscere e riflettere. Tra questi vari articoli ne segnalo alcuni. Uno di Francesco Martone, che ci ricorda come il mondo prima del Covid-19 si stesse avviando verso il collasso climatico e ci ricorda come assolutamente sia indispensabile invertire la rotta. Gianni Aglioti ci parla del già citato Bolsonaro nel direi tragico primo anniversario della sua salita al potere e dedica la propria attenzione alla politica di Bolsonaro contro gli indigeni. Francesco Codello, pedagogista, si occupa del ruolo del pensiero e del movimento anarchico e della loro attualità possibile nel mondo contemporaneo. Un ultimo tocco, diciamo, colorato, Valeria De Paoli, con le sue classiche tre tavole, ci parla dell'indecente commercio online di Farfalle Vive, quindi una rivista anche in questo numero di giugno, particolarmente varia, che offre materiali tra loro diversi, tutti caratterizzati da una sensibilità libertaria. Buona lettura. La copertina di questo numero di A si lega a una serie di articoli che riflettono sui metodi utilizzati per la lotta alla pandemia, metodi troppo spesso sproporzionati e che per questo ci chiedono di mantenere alta l'attenzione critica. Ovviamente non viene messa in discussione la possibile limitazione dei diritti per rispondere a una terribile pandemia come quella che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo, ma il modo in cui questa limitazione è stata attuata e si sta tuttora attuando. Nel suo scritto Prove tecniche di Stato di Polizia, Eugenio Losco, avvocato impegnato sul fronte dei diritti, ricorda che le limitazioni alle libertà fondamentali sono state eseguite con un dispiego di mezzi e risorse esageratamente sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito. Runner inseguiti con i droni, bagnanti inseguiti con gli elicotteri. Ma ci tiene a precisare che non si discute sul fatto che fosse necessario introdurre delle misure di controllo per cercare di evitare la propagazione del virus, afferma nel suo scritto, ma che fosse altrettanto necessario che tali misure venissero attuate nel rispetto dei diritti della persona e del principio di proporzionalità. E poi continua. È innegabile che le misure introdotte per far fronte all'emergenza Covid-19 ledano le libertà e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. Questa limitazione ha di conseguenza determinato la possibilità da parte del potere esecutivo di attuare forme di controllo nei confronti delle persone sempre più stringenti e ha fornito l'alibi alle forze dell'ordine di esercitare una repressione sempre maggiore, annullando ogni forma di protesta e di dissenso. Non solo col ricorso ai vari mezzi sanzionatori, ma anche alla violenza vera e propria. E qui Losco ricorda alcuni episodi avvenuti a Torino e a Milano. A Torino, si legge nello scritto, due auto e due jeep dei carabinieri hanno inscenato una vera e propria retata per prelevare, perquisire e multare un militante di un centro sociale, reo di aver distribuito un volantino davanti a un supermercato. Sempre a Torino, uno squadrone misto di forze dell'ordine ed esercito ha accerchiato e portato via di peso quattro compagni, colpevoli di aver contestato il trattamento inflitto a due giovani immigrati. A Milano, il 25 aprile, alcuni ragazzi che stavano portando dei fiori sulle lapidi di alcuni partigiani sono stati fermati dalla polizia, nonostante il rispetto delle misure anticontagio, accerchiati e colpiti con violenza. Episodi del genere si sono ripetuti in tutta Italia e si ripetono quotidianamente. Questi non sono episodi isolati. La decretazione d'emergenza e lo spasmodico susseguirsi di ordinanze e di divieti hanno dato alle forze dell'ordine molta più discrezionalità di quanta già ne avessero. E non si può certo ritenere che si tratti di episodi magari da addebitarsi alle poche e solite mele marce. Per Losco infatti si è trattato di un attacco preventivo alla libertà di organizzarsi e di lottare nella crisi, nella recessione che sta arrivando, stroncare sin dal nascere le lotte che già inevitabilmente si stanno affacciando all'orizzonte. Niente di nuovo, per carità. In ogni periodo di crisi si è fatto ricorso a leggi emergenziali e alla mano dura delle forze dell'ordine per risolverle. Quello che più spaventa ora, però, sono anche i sempre più sofisticati mezzi per attuare le forme di controllo e di repressione. Mi si risponderà, continua l'articolo, che si tratta di misure contingenti ed emergenziali, di norme transitorie, a scadenza. Ma noi sappiamo che quando si fanno simili passi è poi difficile tornare indietro. Le soluzioni ad un'emergenza sono spesso diventate regole e modelli di comportamento della vita ordinaria. Come non ricordare la legislazione emergenziale per contrastare il fenomeno del terrorismo degli anni 70, la legge reale con i relativi poteri di polizia o l'introduzione del carcere duro negli anni 90 per i mafiosi, ancora in vigore oggi e peraltro esteso a una enorme categoria di soggetti del tutto estranei a tali fenomeni. Le norme eccezionali, conclude Losco, tendono sempre ad estendersi. Purtroppo non c'è nulla di più definitivo delle norme transitorie. Di abusi di polizia in tempo di Covid, ma non solo, abbiamo parlato anche con l'associazione ACAD contro gli abusi in divisa, da anni impegnata nella denuncia delle ingiustizie e nella difesa contro i vari abusi commessi dalle forze dell'ordine. L'associazione, ci spiegano le militanti, cerca di dare supporto immediato alle richieste di aiuto. Siamo in contatto con oltre 30 famiglie, ci dicono, e vittime dirette sopravvissute. Rispondiamo al nostro numero verde giorno e notte, aggiorniamo quotidianamente la pagina Facebook e il sito di controinformazione, replichiamo a centinaia di segnalazioni via mail. Quali sono i casi più comuni e critici che vi trovate ad affrontare? Abbiamo chiesto loro. È quasi impossibile fare un'inchiesta seria e mettere nero su bianco la grande quantità di segnalazioni che ci arrivano, ci hanno risposto. Suddividere il tutto in categorie di abusi, studiarle e analizzarle, collettivizzare i risultati. Ci stiamo provando da molti anni a portare avanti questa via, per arrivare a un dossier che contenga tutti i casi. Ma le urgenze si sommano e il tempo per sistemare i dati è sempre troppo poco. Purtroppo gli abusi non si fermano, si sommano ogni giorno e hanno bisogno di risposte, soluzioni, tempo ed energie. I casi più comuni, a parte le recenti presunte o fantasiose violazioni delle ordinanze legate al Covid-19, le morti terrificanti in carcere dopo le proteste o l'aumento vertiginoso dei TSO, sono senz'altro i fermi per possesso di droghe leggere o altri piccoli reati che rapidamente degenerano in episodi violenti, dove l'arroganza delle divise viene per magia tramutata in resistenza pubblico ufficiale e nei casi più gravi a reati di violenza pubblico ufficiale, spesso supportati da referti inverosimili, mentre dall'altra parte si fatica a ottenere un referto decente e congruo per le violenze realmente subite dal fermato. La vittima diventa automaticamente e sempre il colpevole. L'intervista prosegue e entra nel dettaglio delle attività e dell'azione dell'associazione e in chiusura alle militanti e ai militanti abbiamo rivolto questa domanda. Fra le varie questioni legate all'emergenza sanitaria c'è anche il blocco della giustizia. Durante la pandemia è stato ancora più difficile, quasi impossibile, fare opposizione ai provvedimenti e fare ricorso in caso di multe e di sanzioni. Cosa consigliate a chi ritiene di essere stato vittima di un abuso o di una sanzione ingiustificata? Se si è vittime di abuso, ci hanno risposto, è sempre bene segnalarlo, ove possibile documentandolo con immagini o video. Il blocco della giustizia penale, poi, merita una parentesi a parte, che sarebbe lunga e anche abbastanza tecnica. Le rappresentanze degli avvocati penalisti in questi giorni stanno proprio mettendo in discussione la legittimità costituzionale del processo penale da remoto, quindi via computer, che pregiudica i diritti costituzionalmente garantiti sia degli imputati che della difesa stessa. È opportuno sottolineare che le casistiche di multe e quindi di abusi sono talmente varie che è sempre bene non generalizzare e valutare i singoli casi con una consulenza legale specifica. A tal proposito, e nei limiti del possibile della nostra piccola associazione, rinnoviamo la nostra disponibilità di supporto. L'intervista integrale ad ACAD potete leggerla sul numero 444 di A e i contatti dell'associazione li trovate sul loro sito www.acaditalia.it. Del tema della libertà e delle restrizioni si occupa anche Angelo Mastrandrea nel suo scritto Il germe della resistenza. Nell'articolo Mastrandrea afferma: fatto salvo il rispetto delle prescrizioni sanitarie per evitare il contagio, si sarebbe potuto immaginare tra chi ha a cuore l'egualitarismo e la giustizia sociale un moto di insofferenza contro la gestione politica del virus. Singolarmente, continua Mastrandrea, per un paradosso legato a un neoliberismo in crisi e incapace di garantire il benessere promesso, le proteste contro il lockdown sono state invece egemonizzate da chi non avrebbe nulla in contrario ad azzerare le libertà altrui, a patto che vengano salvaguardate le proprie. Mastrandrea si riferisce alla destra statunitense, a quella tedesca, italiana, brasiliana, che si dice schierata in maniera paradossale, assurda e assolutamente in cattiva fede dalla parte delle libertà, intese come libertà di sfruttare esseri umani, animali, natura e di calpestare diritti e ignorare i reali bisogni delle comunità. Più in generale, continua lo scritto, in tutta Europa l'egemonia dell'insofferenza nei confronti delle restrizioni è stata conquistata dalle parole più felpate delle associazioni padronali, poco aduse a blocchi delle merci e restrizioni di movimento ai loro affari. Sebbene nella sola Lombardia il 60% delle attività produttive non abbia chiuso neppure per un giorno, i dati dell'INAIL parlino di 40.000 persone che si sono ammalate di Covid-19 sul posto di lavoro e la mappa dell'espansione dei contagi mostri una singolare sovrapposizione con la cosiddetta Blue Banana, l'area più industrializzata del continente da Manchester alla pianura padana, gli industriali non hanno fatto passare giorno senza chiedere al governo italiano prebende e riaperture. In questo modo, altro paradosso che non si rivela tale, l'Italia è il paese che ha avuto più prescrizioni e divieti e meno fabbriche chiuse, con l'estremo paradosso di casi come quello della Whirlpool di Napoli, dove mentre si annunciava la chiusura definitiva a fine ottobre, gli operai erano costretti ad andare al lavoro in pieno lockdown. Sono state proibite passeggiate e corse nei parchi e sanzionati gli spostamenti oltre 200 metri da casa. Si è disquisito delle passeggiate con il cane e del grado di parentela negli incontri, pur di non fermare le filiere produttive e le cosiddette catene del valore, con l'ulteriore paradosso, diventato senso comune, di reprimere attività innocue e chiudere entrambi gli occhi sui reali vettori del contagio. Di conseguenza, è accaduto che mentre a Salerno un giovane che non si era fermato a un posto di blocco veniva inseguito dai carabinieri e selvaggiamente picchiato, negli allevamenti padani si lavorava gomito a gomito per imballare cosce di pollo senza alcuna sanzione. Mentre i droni sorvegliavano le spiagge per individuare solitari aspiranti bagnanti, non una telecamera monitorava il rispetto delle distanze nelle catene di montaggio della logistica o nei call center attivi 24 ore su 24. Ancora una volta, l'irrazionalità tutta capitalistica del prima produrre e poi vivere ha prevalso sul rispetto della salute e delle libertà, che per essere tali devono essere collettive e non individuali, come vorrebbero i dimostranti a mano armata del Michigan. Questo paradosso, dice Mastrandrea, questo cortocircuito nell'ambito della libertà è stato possibile grazie alla paura che ha sopraffatto tutte e tutti. Ai tempi del Covid-19, conclude Mastrandrea nel suo scritto, liberarsi dalla paura e dall'obbedienza vuol dire non accettare acriticamente non tanto le comprensibili misure d'emergenza, quelle dettate dal senso civico e dal rispetto degli altri, quanto tutte le altre che configurano una sudditanza che rende possibili pericolosi autoritarismi, come la storia ci ha insegnato. Il germe della resistenza che è dentro di noi e non conosce confini può aiutarci a ristabilire un limite rispetto a ciò che si può accettare. Sarebbe una disobbedienza liberatrice dal mondo che ci aspetta dopo la pandemia, a Milano come in Michigan o a Berlino. Di fronte all'archivio di A Rivista Anarchica, ovvero la pagina web, e sono colto da un disorientamento totale. Il tempo mi ha colto di sorpresa, mi ha teso l'ennesima trappola, perché vedo che il mio primo racconto della serie Lettere dal Futuro risale all'ottobre del 2012. Avrei detto 4-5 anni che collaboro con Rivista Anarchica, ma è molto di più. E questa cosa mi fa venire in mente, diciamo, il nostro motivo di incontro con Paolo Finzi, la proposta di una sorta di rubrica dedicata a un racconto al mese, e l'idea è stata quella un po' di giocare con il tempo e di scrivere delle storie ambientate in un futuro immaginario ma molto radicato nel nostro presente. Così le lettere dal futuro diventano una profezia in fondo anticipata che è un po' la dilatazione e la distorsione delle tendenze che ci sono in atto, ahimè, da anni. Prima tra tutte quella del controllo e di un sistema sempre più pervasivo e invadente che però funziona con la complicità delle persone che poi lamentano questo controllo. In fondo il primo racconto si intitolava La prossima generazione, sembra quasi uno spunto ingenuo oggi, no? dopo 8 anni, cioè l'idea di un incontro d'amore definito da un'app che rileva il grado di affinità delle coppie. E tutto ciò avviene in un luogo per eccellenza, cioè un supermercato, che invece è un posto, diventa un luogo di appuntamenti. Diciamo che da allora mi sono sbizzarrito un po' con la fantasia. La scommessa all'epoca non l'avrei mai pensato di avere spunti per 8 anni, no? Uno al mese, però purtroppo, per fortuna, la cronaca non ce li fa mancare, e l'altra parte del mio taccuino è proprio legata all'idea di dilatare un po' questa fantasia. Non so, l'algoritmo predittivo, per esempio, funziona, è uno spunto che racconta la storia di un uomo che, insomma, viene anticipato, addirittura profilato in anticipo a dispetto di quelle che sembrano le sue personali esigenze. Un computer gli suggerisce l'acquisto di cibo per gatti, lui che non ha neanche un gatto, e poi scopre che 2 giorni dopo la figlia soccorre un gattino in strada, per cui questo algoritmo di questo computer addirittura anticipa i bisogni e le esigenze di cui non è ancora consapevole il protagonista / consumatore. Ecco, siamo un po' tutti inquadrati come consumatori in cerca di un riscatto, di una forma di fuga. C'è anche questa parte importante per me nelle lettere dal futuro, l'idea di poter aprire una speranza di un mondo diverso e alternativo, e senza mai prendere troppo alla lettera poi gli intenti di questa rubrica. Cioè, a volte le lettere dal futuro sono diventate delle incursioni nel passato. Il ricordo, per esempio, di un amico argentino scomparso, regista teatrale e grande artista, che mi raccontò un episodio che ci ricollega alle nostre, diciamo, ai nostri tic, alle nostre nevrosi di oggi, e poi altre cose che sovente sono raccontate al passato nonostante siano ambientate nel futuro. È un modo anche questo di giocare con il tempo, come raccontare un futuro già accaduto, che ci sembra già in procinto di accadere, e un passato che ancora deve accadere, perché potrebbe essere l'auspicio di una visione diversa e di un mondo diverso. Spero di non essere stato troppo cervellotico, e vi ringrazio perché questa rubrica pare, sembra che abbia successo, insomma, nel senso, nell'unico senso possibile vero, successo, cioè una forma di comunicazione e di coinvolgimento tra chi scrive e chi legge. A tutti, alla prossima lettera dal futuro. Con questo ultimo intervento chiudiamo la puntata del podcast di A Rivista Anarchica. Vi invito ad inviarci dei feedback con commenti, suggerimenti, idee ai nostri contatti, che sono la mail arivista@rivista.org. Su Facebook ci trovate alla pagina A Rivista Anarchica, su Twitter al profilo A Rivista Anarchica. Vi segnalo anche l'indirizzo del nostro sito www.arivista.org. Grazie a tutte e tutti per l'ascolto, ci risentiamo alla prossima puntata.